non a te vorrei morire. Tanto che cosa è mai la vita mia? Forse non lo farà, perché lo sai. Spero che un giorno tu ritornerai. Anche il nome mio rinnegherei. Tanto potrei chiamarvi la più infelice. Sento d'aver perduto con il tuo amore cose che più nessuno mi darà mai. Cerca di capire che non ho colpa. Cerca di capire che amo un'altra. Oggi mi dici che ami un'altra. Oggi che ti sei preso questi anni miei. Piango, ma son sicura che tornerai. Come tutte le volte che te ne vai. Cerca di capire che non ho colpa. Cerca di capire che amo un'altra. Oggi, oggi mi dici che ami un'altra. Oggi, ma poi domani ti pentirai. Sicura che tornerai. Io sono sicura.